pompo. Dimmi, dimmi. Dal Ghippi ti ho riconosciuto. Col 2009 ce l'ho che no. A parte l'FM500S c'è il Bippi uguale. Anche tu versione Papa sei diventato. Sì, sto usando il DM1000 con il microfono per fin cazzo. Già va bene, io sto cercando di far riprendere di nuovo la buon'anima, cazzo. Ieri non sta funzionando, stamattina accendo, funziona. Io ho pulito un po' di contatti e non funziona più. Dai, un poco, dove ti ringrazio? Io? Mi colpiti sopra. Stavo facendo due colpi di portante stamattina, a un certo punto ho lasciato fermo e si è sentito lo sgancio dalla modifica. Così da solo, si è sentito tac, il relay che è scattato. Beh, sono scattato in magnetica. Adesso è diretto, pompo, gli ho tolto lo sacco a modifiche. Adesso ci sono sempre, guarda, si aumenta appena, adesso tu ecco dovresti sentirlo, giusto? E appena però. Sì, appena, guarda adesso, ora. Ehi, adesso c'è. Però non senti il bip. Esatto. Mentre guarda, se io faccio così, tu il bip non lo senti lo stesso, io lo sento, guarda. No, non c'è infatti il bip. E io lo sento lontano lo sento. C'è qualcosa che non sta agganciando bene. O è qualche potenziometro che non sta lavorando come deve lavorare. Non lo so. O è questo cavolo di relay che sta funzionando e non funzionando. No, se non lo scazza, già funziona. Se non lo sai, succede di portarlo. Adesso stanno solamente con relay che c'è sulla scheda dell'Echo Colt. E poi c'è la scheda del bip che è separata. Qua sei tutta assieme pompo in questa scheda, se non sbaglio, perché questa è quella dei canali. E poi c'ho l'altra scheda dell'Echo Call, tutti i trimmer, tutte cose. Quindi Fili non è staccato neanche uno, non è toccato niente. Da solo è venuto i cussi. Cosa Antonè, che è rimasto zitta questa radio? Ho detto che sono venuti i cussi da soli, ho detto, a quella radio tua. E allora, questa radio è indemoniata, si accende, cioè si attiva, si disattiva come quando dice lì. Infatti l'ho anche spenta di nuovo poco fa, un paio d'ore, e adesso riprovo e invece non è successo niente. Ascolta, posso rispondere con l'alimentatore diretto? Stacca direttamente il cavo in pratica, la lascia accesa, stacca il cavo e in pratica dovrebbe andare a riposo e spegnersi il relay da solo. Posso spegnere l'alimentatore, la spegni direttamente al canale di positivo, poi prendo e riagganci. Ah, a dargli uno shock elettrico, diciamo, per se si riprende. Sì, non è shock elettrico, quello si chiama reset, si chiama, in pratica, hai capito? Li fai il reset, come si fa nei ricevitori Sky, è uguale. Che se in pratica c'è qualche cosa in corto, deve staccare per forza la corrente per almeno 15-20 secondi, 30 secondi. Una volta che la riaggancia la corrente col cavo, allora si rimette a posto. Se no in pratica non riceve nulla, può stare anche tutto il giorno girando a destra e a sinistra. Quando è protezione è protezione. Ehi Antonio, dai, dopo lo faccio, che adesso vado a pranzare, devo arrivare adesso. Dai, sentiamo dopo, che qua è già pronto, dai. E vabbè, fai così allora, adesso stacca la corrente, direttamente, stacca direttamente la corrente dal baracchino, senza cancellare l'alimentatore. Puoi prendere gli agganci, dovresti sentire scattare il relay senz'altro. cava cava, va bene, ok, adesso glielo faccio, dai. Tanto dai, sentiamo dopo che vorrà pranzare, dai. Va bene, ok. Andava bene, dai, ciao ciao, a dopo. A dopo, ciao. Ciao. Sì, avanti. Giulio, tu sei? Sì, sono io, guarda niente. Guardami di segnale quando ti sta arrivando. Prova. Guarda, è 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 pieno, 8 pieno, pieno. E modulati, 4, 8, 9 modulati. Va bene, adesso 50 centimetri oltre il tetto, va bene. Ti raccomandate, meglio è, se non ci fosse la casa davanti, ne arriveresti molto forte qua. Ma comunque adesso la radio è buonissima, la radio è anche forte, per cui va bene così. Hai visto, man mano che tiri su, man mano che l'antenna la metti all'aperto, senza ostacoli, ecco che il segnale aumenta, è ovvio. Va bene, va bene. Però sono salite le stazioni, adesso sono 1 e 2. Quasi 1 e 2, modulati. Ora. Ci devo rivedere un po' tante cose, dai, quando sistemo l'altra antenna mi faccio tutte le connessioni fatte bene come si deve, che sono tutte alla sposticcio, diciamo. Sì, Daniele, ma 1 e 2 è giusto, guarda, 1 e 1, 1 e 2. Le stazionali quando sono giuste sono così, perché non esiste antenna che non sia almeno 1, 1 e 2 di stazionali. Questo te lo posso garantire, perché sono male, quando tu senti qualcuno per questa che dice stazionale è zero, e allora se stazionale è zero non è regolata al 100%. Va bene, però qua c'è qualcosa che questa radio sta dei numeri. Poi lo strumento, adesso da 9 watt sono passato a 8 watt. Va bene. E adesso com'è, Giulio? Guarda, sono 2 watt e mezzo. Aspetta che mi prendo i binocoli. Se non mi rimasto la visivo. Avanti, prova. Aspetta, adesso sono... Guardate male! 3 watt tondi, guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Con 3 watt tondi, 6, 7, e il radio ha dei picchi molto positivi. Va bene, lo so, perché passa da 3 a 5 modulati. Da 3 a 5 modulati, e così sono... sono tornati quasi 9, dai, 9 modulati. E appunto, se metti in più, come poco fa erano 8, era 8, 8 e modulati arrivati a 9. E adesso stavi arrivando da 7 a 8 e mezzo, dai, più o meno modulati. Va bene, perché riesce di nuovo la sincope alla radio, non ha più voglia, ha detto. Ah, così, non ha più voglia. No, ma adesso la radio è buonissima, mio, Daniele, adesso sei con una radio forte, molto bella, chiara. Ehi, giù, gli avevo cambiato il microfono qualche settimana fa, capito? Stando col suo microfono suo, diciamo, dai, che va bene per questa radio, per le condizioni in cui è. E va bene, meglio così, dai. Ok, Daniele. L'antenna qual è? Sempre quella comunque, no? Sì, giù, è sempre quella che gli ho aggiunto un altro... gli ho fatto il piantone più grosso alla base, ma è ancora da salire perché diciamo che è posizione zero, e proprio c'ha, diciamo, i bulloncini che stringono il palo e sono a pelo di saffa, e tutto il resto è in basso, capito, da 2 metri, quindi c'ho 2 metri in basso da salirmi ancora, ma quello lo farò prossimamente. Quando metto l'altra antenna e ci vuole un'altra staffa in alto, nel terrazzo di su, e così faccio un lavoro definitivo, fatto bene, ciccia. E così una cosa me l'ho già fatta. Beh, certo, piano piano, vai, non c'è fretta. Interessante fare bene i lavori, poi, per le resto va bene. Comunque è migliorato tantissimo, dall'altro giorno, ma molto veramente, soprattutto il radio, va benissimo, cazzi, tanto che bene. E sicuramente anche il segnale riceve più forte, non solamente di trasmissione, ma anche il segnale va più forte, come ricevi. Come se arrivano 9.25 adesso giù. Pensa tu, 9.25, se alzi gli altri 2 metri mi arrivi quasi 9.30. Lo so, praticamente il segnale che arrivo da Claudio, dai, più o meno è quello. 9.20, 9.25, circa. Sì, beh certo, Daniel, quando appunto, come ti ho detto, se non sei andato a vedere, ti hanno scoperto e stai incominciando a fare quello, è chiaro che aumenta sia in trasmissione che in ricezione, già lo credo. Tu fatti il calcolo, adesso ho 5 spezzoni di palo a 2 metri, 10 metri di palo ci ho messo. 5 metri, no, 10 metri di palo, di cui uno, vabbè, non sono 10 tondi, ma sono a 8. Capita, a voglia, è abbastanza lungo. Tu immaginati che un palo così, se l'avresti messo sul tetto addirittura dove sarebbe arrivato. Piccolo minimo sarebbe arrivato a 4 centesimi. Vabbè, è troppo chiusa questa come zona, troppo chiusa per me, sennò come zona questa è buona. Se vai nei palazzoni di quelli 5 piani, che vedi tutto a Porto Torres, sta quel costone lì, ha voglia che viaggia. Già lo credo, qua stai mettendo l'antenna proprio sul tetto, avendo voluto di fare quel lavoro lì, con 8 metri di palo, se puoi immaginare. Capita, a livello di grazia c'è, ma anche più in alto. Da lì, allora avresti tutta la parte lì, andando verso la 131, tutto la visibilità chiara e libera, senza nessun ostacolo. Cava, già è così, già giù. È che c'è Monteoro, che è quella collina di Monteoro, diciamo, che ostacola un po', poi per il resto già va bene. Buonasera. Ciao Gianni, Monteoro si sa, a me mi dà fastidio per Alghero, io ad Alghero arrivo basso, e dicevo anche molto basso, proprio perché c'è Monteoro, pure andando avanti c'è anche Monteluglia, perché si può immaginare, è tutto pieno di ostacoli, almeno dalla parte mia, questo Alghero, vabbè dai, comunque. Magari abbiamo altre posizioni più libere, tipo che sto io andando verso Castelsardo, quella zona lì, dai, Santa Teresa, in quella zona lì sicuramente c'è più libertà di veduta fra Atene e Atene, per cui il segnale sarà sicuramente migliore. Vabbè, dai, insomma che hanno fatto Gianni, vai Gianni, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera, ben sentito Daniele, ben sentito Giulio. Tutto a posto? Tutto a posto già, tutto a posto. E adesso abbiamo cominciato a parlare, perché tutta la sera io con la radio accesa, qui non è entrato nessuno. Ho fatto la chiamata anche per Allegri, ma Allegri si vede che lui è impegnato in campagna, per cui non lo so. Vabbè dai, avanti Daniele. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Dammi un controllo segnale, com'è? Fai un passaggio. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. 9.20 radio 5. È aumentato? Qua, 9.20 radio 5. Adesso mi sono messo a posto lo smitter e arrivi così. Ehi, dai giorni scorsi è successo qualche cosa? Guarda, più o meno non è cambiato un granché. Arrivi forte, come ti ho già detto l'altro giorno. Ehi, no, siccome adesso l'ho liberata tutta l'antenna, è tutta libera, e quindi vediamo, il Giulio è aumentato, e poi via via a girare, magari perché Giulio è più lontano, noi siamo troppo vicini, capito? Probabile, comunque qua 9.20 fisso, proprio stabile, è Radio 5. Va bene, va bene, adesso la cosa arriva a 9.30 al minimo. Lo so, appena tiri su già sicuramente sfoga meglio. No, adesso è tutta libera, ne ho altri 2 metri da sollevare che ci ho messo il palo nuovo. Però li sto usando tutti, li ho fatto scavalcare mezzo metro di mantovana. Ok, ok, ho capito, dai. Meglio così, meglio così. E la sonda che ha la sonda, Daniele, non mi ricordo com'era il nome. Ringo, Ringo Giulio, Ringo, Ringo, Ringo. Ah sì, Ringo, sì, sì. Ehi, sta andando bene. Ma uno e due di centenari, controlla quando piove, perché la lingua di solito, vabbè se ritrovata bene magari non ci sono problemi, perché di solito la lingua portava quel problema, quando pioveva aumentavano molto le stazionali, però mi sta dicendo che c'era uno e due va benissimo, è ottimale, perché ripeto, antenne senza avere almeno uno e uno, nascono tutte così dalla fabbrica, tutte indistintamente, e lasciamo la leggenda che sentiamo sempre in frequenza, stazionali è zero, male, se tu hai stazionali è zero, l'antenna lo sta risuonando a modo suo, a modo esatto, per cui tutte le antenne, anche quelle da veicolo, anche quelle hanno uno e uno di stazionali. Poi ci sono antenne che ne hanno anche uno e due, uno e tre, però senza stazionali non esiste, non è un'antenna perfetta, questo sia chiaro, però chi si dice diversamente sta dicendo solamente una leggenda metropolitana. Già così, vuol dire che non sta risuonando bene. No, questa con la pioggia giù, scendono le stazionali, l'ho già provata. Ieri che ha piovuto, oggi che, vabbè, il giorno dopo la pioggia, gli altri giorni che ha fatto acqua, lo stesso. Niente, non ha avuto nessun problema, guarda, perfetta. È meglio così, meglio così. No, perché facevano quel difetto, Perlomeno la gente si lamentava che la lingua quando pioveva salivano le stazionali, però adesso evidentemente non si è bagnata all'interno, diciamo così, là, e dove ci sono i contatti, per cui va bene. Va bene, avanti Gianni. Sì, sì, sì, sì, stavo ascoltando, ieri tutti i banditi, vabbè ho beccato Franco da Sassari, praticamente ho provato a smanettare quei due trimmerini che c'erano dentro, ma praticamente a livello di potenza di segnale non è cambiato niente. Praticamente il secondo trimmer che ho controllato praticamente modifica praticamente la regolazione dello smitter in uscita, in trasmissione. Però non modifica altro, infatti mentre lo variavo vedevo l'aghetto che si spostava o in basso o in alto. Il terzo trimmer ho provato a muoverlo sia in trasmissione che in ricezione, ma non da nessun cambiamento, per cui sono rimasto tra virgolette un po' deluso, vabbè, comunque ce la teniamo così, avanti giù. Ok, ho capito, ma perché solo 3 ce ne sono di questi trimmer? Ce ne sarà qualche donato nascosto, controlla. Con che hai provato? Sì, c'era Franco in ascolto quando ho provato a modificare, a regolare quello che avvicina l'antenna. E niente, ma ti ripeto, non ha dato nessun risultato. I trimmer che ho contati sono solo 3. E quindi uno regola lo smitter in ricezione, il secondo regola lo smitter in trasmissione e il terzo visivamente anche in uscita, cioè a livello di segnale non modifica niente. Mi viene da pensare che magari ha qualche relazione con il PA, con l'uscita esterna dell'altoparlante, chissà. Però adesso non tocco niente, lo lascio così. Oppure lascia che sia fatta così, fa modo, perché è una radio abbastanza battata, per cui può lasciare anche che sia stata stata costruita in quel modo, perché quella è quadrata, quella è una radio quadrata, ci sono le quattro dentro, a differenza delle radio moderne, tra virgolette, no, non ci sono più i quarti dei canali, al massimo ci può essere il quattro oscillatore, basta, ma niente di più. E va bene, grazie. No, ma se l'ha provata con Franco, sicuramente Franco c'era una persona attenta e già cercare sicuramente se c'era cambiamento o meno, ma se l'hai già fatto vuol dire che è così. Anche se siete vicini, perché essendo vicini tu, anche senza muovere il film, dovresti arrivare a bomba. Per cui guardate che lui non possa notare la differenza essendo troppo vicini, non lo so, questo, dai. Non lo so, bisognerebbe magari, che so io, fare quando si è così vicini, attenuare il suo segnale per sentire se c'è differenza, perché essendo molto vicini la radio già arriva alla massima espressione e quando aumenti e quando sei già al massimo in lontananza magari probabilmente si nota meglio, però Franco già è una persona molto attenta, già non è certamente uno stupido, per cui già se ti ha dato quel risultato significa che è così. Sì, vabbè, lui quando abbiamo fatto il controllo ha abbassato la sensibilità, questo ragionamento l'ha fatto anche lui, ha abbassato un po' la sensibilità e poi abbiamo fatto i controlli, proprio per evitare il discorso della vicinanza, capito? Quindi quello l'abbiamo fatto prima e poi abbiamo fatto il resto e il risultato, te l'ho detto, non ha dato nessuna variazione, ok? Avanti Daniel. Gara, gara! E va bene, dai. Riprendete che abbiamo 105 minuti. Va bene, Daniel. Sì, Gianni, è così, evidentemente. È così. Avete fatto già la prova e vuol dire che è così e basta. Ehi, vabbè, dai. Ci saranno altri momenti migliori, ma comunque vai bene lo stesso, perché io ti sento bene, la verità, non io ci dico su cui. Non è fortissima, ma è abbastanza chiara, intelligibile al 100%, per cui va bene. A meno che uno, magari, non so, si ritrova con un QRL molto alto, allora il discorso è diverso, ma siccome mi stai arrivando in zona di Santiago, quasi 9, mi sembra, se ricordo bene, che il QRL è molto alto, allora potrebbe dare del fastidio, ma non credo però, perché arrivare a 9 è proprio un periodo di preparazione, allora sì, allora è diverso il discorso, c'è molto QRL. Però in questi giorni così normali, calmi, va benissimo così, io ci sento bene. Prova che voglio vedere quanto arrivavi, se non mi ricordo quanto arrivavi di segnare, prova che guardo. Sì, conta che c'ho ancora quella pressione di campo che chiaramente mi sta togliendo un po' di segnale. Sicuramente quando cambierò il campo, metterò tutto a posto, il segnale da te aumenterà, questo è poco ma sicuro. Sì, infatti, mi ricordo, era prima della 9, adesso è 8, adesso è 8, adesso è 8. Però, diciamo, 8 è già abbastanza, è un meglio segnale, dai. È buono, non è buonissimo comincia a essere dopo il 9, poi ultimo è dopo il 9 e 10, ma così è buono, per cui va bene lo stesso, no, non c'è problema da raccontare. Sì, ti ripeto, c'è questa cosa del cavo, infatti adesso nei prossimi giorni vediamo di, insomma, dovremmo riuscire a risolvere questa cosa, quindi almeno per il capo siamo a posto, così insomma ripristiniamo il segnale originario che era quello buono, dai, quello ottimale, considerando il watt che avrà questa radio, ne avrà 3-4 se ce le ha, insomma, comunque va bene così per adesso, va bene così. Stavo guardando su internet stamattina, così a livello di adesso per curiosità stavo guardando un po' di vecchi baracchini base e ho visto le foto di un Alan 560 che è molto simile al Galaxy, lo conosci? 560, e che marca è? Alan, è marchiato Alan 560, è praticamente quasi il fratello gemello del Galaxy. Non ce l'ho presente, ce ne sono tanti, anche di seconda mano ce ne sono tanti. Considerato, guarda, che Fabio è disposto a darti il suo, quello, come si chiama, il superstar, prenditi quello quando è possibile, così le fai, tanto è un buonissimo baracchino, non ce ne sono, non paghi la metà di quello che costa da nuovo, e dunque va bene, perché l'abbiamo sentito, va benissimo, perché era grande. Galaxy che ti ha detto, mi sembra che sono un ottantino, una cosa del genere. Perché comprando uno nuovo è sempre intorno ai 170, una cosa così, 165 là, 160 più o meno. Dipende dai negozi, se ti chiedi negozi può essere anche 180. Dipende. Ma mi sei considerato che stai già iniziando, quando è possibile poterlo fare, ti puoi prendere quello, un'ottantina di euro e va bene lo stesso, perché resti molto bene con il superstar. Sì, va, infatti era... stavo giusto curiosandomi, non, adesso ti ripeto non c'è niente in vista, cioè riguardo acquisti vari, era solo giusto curiosare, per il momento è solamente curiosità, era quello, mi sto facendo un po', insomma, mi sto rinfrescando un po' la memoria, sto vedendo anche cose che non conoscevo, quindi è giusto per rinfrescare un po' le conoscenze, non per altro, però in vista da acquisti di radio non ce ne sono, per cui adesso mi tengo questa giù, quindi va bene così, facciamo camminare questa, poi vediamo cosa succede nel prossimo futuro. Beh certo, non si aspettano, ci mancherebbe, capita. Ogni cosa ha il suo tempo, per cui non è problema, non c'è fretta, assolutamente. Per il momento ce l'hai, quando puoi farlo, quando ritieni soprattutto di poterlo comprare, sempre che ce l'abbia ancora, ma suppongo di sì, io l'avrei preso. Claudio tanto non te ne dà per le vecchie, stai tranquillo che Claudio per le vecchie non te ne dà. Non so come, io questo, vedi, questa radio che io sto usando in questo momento, è quello professionale. Però lì prima era di Claudio, poi Claudio l'aveva venduto a un certo Franco California, e poi io l'ho preso da Franco California, l'ho comprato, nuovo, sempre lui è nuovo, nuovo del deck, veramente. Anche se è un apparecchio ormai di 20 anni fa, non è che è una cosa di oggi, forse anche di più di 20. Però adesso l'avevo fatto nel regionale tutto e va benissimo. Poi tutti gli altri sono tutti baracchini, questo è una radio, una radio aperta. Gli altri sono tutti baracchini, gli altri che ho 12 tutto, si può immaginare. Che poi li tengo conservati perché mi piace aprirli, se no le avrei anche eliminato. Anzi, qualcuno gli ho dato anche un mio nipote che è a Cambogna, però no, anzi gli avevo dato anche l'antenna, gli avevo dato anche l'alimentatore, gli ho dato il microfono, gli ho dato tutto praticamente. Ogni tanto quando viene si porta via sempre qualcosa. Va bene, riprendi. Insomma, con tutti questi regali ci ha fatto la stazione, dai. E quindi buon per lui, dai, così almeno fa anche, non so se era già CP, almeno, ma dico, se è nuovo almeno fa anche un po' di esperienza con materiale già collaudato. Appunto, no, perché senza che gli ho dato l'antenna. Ma non l'ho comprata per lui, a dire la verità, non l'avevo comprata. Gli avevo dato la Game Master nuova, gli avevo dato, l'ho comprata per lui. E io poi sembo, ma vabbè, io avevo la massa battuta allora, e colpa io avevo la massa battuta, poi prendo questo, me la sono costruita. Questo era la Game Master originale, lui ha. Che si può immaginare. Io ce l'ho autocostruita, l'avevo comprata, a lui gli ho dato quella nuova, perché quando è venuto, ma lei è dammela lì, dammela, e dammela, ma di questo, sai, se la fa, guarda dove fa, che ti fida a dire, ma se ne vai, avviati, tutte le volte che vedi, mi sputi in testa per qualcosa, cosa gli dovevo dire? Sì, sì, capisco, ma infatti già va bene così. Già va bene così. E quindi hai dei baracchini, però ce li hai tutti posteggiati, quindi presumo che li conservi per ricordo, insomma, perché ci si è affezionati in qualche modo, giusto? Beh, certo. Ce li ho perché sono ormai tutti i baracchini datati, comunque. Questo modello è un Alan Midland 78 Plus con 400 canali. Poi ne ho uno che è Lafayette, Telstar, ho un Cobra, ho uno Superstar 360, ho uno 787 della Summercamp, ho un Ara di 2. Un 50-24 della Tokai, e poi che cosa ho? Ma come la metto più delle marche, figurati un po'. Sono tutte quante cose fatte nel tuo scatolone, sai, un tiro in alto, così. E non mi tocco più, ma l'ho messa apposta, perché prima ce l'avevo, invece, un HB23, un HB23, poi il Cobra la base grande, ma quello ce l'ho qui da qua. Anche uno ha tre canali con l'antenna telescopica portata, no? Però si può attaccare anche l'antenna esterna e va bene lo stesso. Ma non me ne voglio, sono l'altro 40. Io sono per questa dal 1972, fate lo conto quanti anni sono già 47 anni e due mesi, perché eravamo in febbraio 1972. In aprile sono 47 anni e 2 mesi. Caspita, un veterano proprio, proprio all'esordio della CP proprio. Cose belle, sì, adesso mentre stai facendo i nomi delle radio, qualcuno la conosco, l'ho vista su internet e stavo leggendo un po' di informazioni. Già c'hai i baracchini carini, dai. Tutti funzionano, tutti funzionano, per cui, tu pensa che con i baracchini stiamo trascurando, la radio HF stiamo trascurando, e infatti sono dovuto mettere la foto, l'ho dovuto fare il regionale, proprio per quel motivo lì, perché l'avevo trascurata, usavo sempre i baracchini, e invece no, l'HF bisogna utilizzarla possibilmente tutti i giorni, se è possibile, perlomeno accenderla tutti i giorni, perché i baracchini non succede niente, sono rimasti 20 anni spenti, quando te li accendi vanno sempre bene. Perché questo tipo di radio HF no, è diverso, quindi devono lavorare, sono fatti apposta proprio per lavorare quasi giornalmente. Adesso sto usando più quella che i baracchini qualche volta, ogni tanto ne accendo uno. Sono rientrato, Ok, riprende, va. Va bene, sono andato a farmi una sigaretta veloce, fammi una boccata d'aria. Sì, adesso sei andato, ho capito. Ma ossigenati, come i turchi. E allora, così è. per carità. Cava, cava, questa ancora non ha più voglia di riprendersi. Ehi, se si sente male già si riprende. Cavi, e tu ti ricordi che l'hai installato? No, ho un altro tipo di telefono, non la posso installare quell'applicazione. Deve avere l'applicazione Android, se no non va, non va. Non hai nemmeno la come si chiama? Il tablet non ne hai? No, cioè, vabbè, il telefonino classico, poi c'ho il computer. Sì, l'ho vista, ne ho sentito parlare di quell'applicazione, ma non la posso installare. Non la puoi installare se non hai il sistema Android, non va, non funziona. Sì, lo so. Ma io se va a casa sta acceso. Sì. Niente, vabbè, non posso metterla, quindi di conseguenza non la uso, insomma, non è possibile. Ecco un'altra cosa che volevo dirti. Così, a livello personale, in linea di massima, visto che mi hai nominato tutti quei baracchini, secondo il tuo giudizio, quelli più o meno che mi hai detto, secondo te qual è in linea di massima quello che preferisci di più? Ma se devo essere sincero, sono tre. C'è il Galaxy, il Superstar e il 789 della Roma. Però, tutto, buonasera. Senti PMR, compagnia PMR. Vedo casino, eh. Ancora stufando con quel con il VIP? Eia, adesso mettiamo appena di ecco. Hola, si sente? Kappa. Ieri non sta funzionando, stamattina l'ho acceso e poi si è staccato tutto da solo. Secondo me qualche, e poi le ho pulito anche, ho messo le riprese a contatti. Sapere, magari da un attimo si riprende di nuovo. Quando una canna è molto, come si dice, autonomo, dai. Eia, è autonomo, è bello che funziona la metà. Va bene, tutto lui comanda, di sua fa, smonta, la mano mi assorda. Oh yeah. Vabbè, vediamo se c'è, se è rientrato Giulio. Giulio! Sì, sono qua, sono. Sì, no, stavo ascoltando il PMR, un attimo, il sensore e Gio Maria. Falle entrare qua, Gio Maria. Non c'è stato lì, Gio Maria. No, non mi piace il canale 10. Non so perché, però non mi piace. Adesso che non c'è stata mai qua. Meglio per lui. Meglio per lui. Tu preferisci il canale 23? Non mi piace il numero 10, l'ho capito. Vabbè, ognuno adesso è vero. E poi al 23 non c'è nessuno, qualcuno al 20 ogni tanto. Io sono il numero PMR. Siccome sono tutti quanti uno vicino all'altro, lì alla veloce, e stavano fra di loro, capito? Difficilmente poco entrano i 27. Andare, cosa c'è Pomponio? Buonasera. Aspetta, che io parlo con Muro. Dammi un controllo segnale, Pompo. Vado un po'. Guarda, 1, 2, 3, 4 e 5. Quasi 9:20, sì. Aumentato? Non l'avevo aumentata, mi sono accorto. L'incontro stamattina. E il segnale è rimasto lo stesso. Sì, sì. Ma il bip però. Però non è aumentato, strano. Boh, pom, pom. Questa cosa sono dei numeri saranno. Non lo so. No, siccome ho sollevato l'antenna, adesso è libera. E quindi stavo valutando un po', perché da Giulio un po' sono aumentato. Allora, se sei aumentato lì non ti preoccupare. L'importante è che spegni quello di... Che balla coi dubbi quello. Io ho già detto, balla coi lupi. Chi è balla coi lupi? La palestra che c'è di fronte. Ah, balla coi lupi. Boh, adesso vediamo cosa succede. Domani mattina accendi. Già ti penso il lineare io, quello la 100 watt, non ti preoccupare. Lui sta ballando. Ah, più bello piglia e schiacci, trova. Ti do anche il microfono, guarda, con l'effetto eco. E gli dici, sono Boboi. No, quello ce l'abbiamo a Boboi, guarda. Ma lo senti a Boboi? Sì, ma questo è meglio, questo è ripetitivo. Va bene, va bene. Soia, riprendi Giulio. Sì, ciao Antonio. Sì, sì, c'era sempre acceso. C'era acceso fino a una mezz'ora fa, mi pare. Aspetta, lo dico subito se è acceso. Sì, c'era acceso. Lo stavo guardando un momento fa. C'è anche su 10, poverone. Poverone sul canale 10, ma non risponde. L'ho chiamato un sacco di volte, ma non risponde. Vuol dire che non è presente. Magari si è lasciato il telefono acceso, si è lasciato e non risponde. Ah sì, sì, Antonio è su 14. Sì, accende. E con la febbre Antonio, comunque già è a casa, ma te lo chiami e ti risponde, leoncino. Ehi, io lo so, no, l'ho visto, lo so, nel senso di giugno, sono 14, leoncino, sempre visto, sempre visto, qualche volta lo chiamo e chiacchieriamo. No, ma adesso tu dici, stavo dicendo, c'è anche polverone, però l'ho chiamato tante volte e non mi ha risposto stasera, ieri mi ha risposto. Oggi si vede che è lontano dal telefonino, poi ce l'ha con un volume basso, no? Veramente ce ne sono due su 10, eh. Ce n'è uno che abita vicino a me e non l'ho capito, l'altro abita per la strada per andare a cosa, Port Torres, in pratica. Dovrebbe essere da 131, forse dalla parte di cosa, di non ti posso dire, ottava o qualcosa del genere. Poverone, c'è il nome, sì, poi ci ho parlato ieri, ci ho parlato con Poverone. A distanza di più o meno 10 km, là, dove c'era così, sono soffato in meno, perché nel radar e nel raggio di 6 km. No, a me uno mi risulta al centro, mi risulta. Infatti, che è proprio attaccato a me, su 10. Molto, ma molto vicino a me. L'altro invece risulta più di 6, quasi a 10 km mi risulta. Uno c'è proprio al centro del coso, figurati. È attaccato a me. Non so chi cavolo sia. Ok, ho capito. No, io sto guardando il radar, sto guardando. E lei, il 10, c'era il 10, c'è una sintonizzazione esattamente sulla linea di 6 km. Per cui è vicino, è abbastanza vicino. No, ce n'è un altro, adesso sono in 3, siamo in 3. Sì, ce n'è un altro, non so chi è. Ce ne sono, come mai lo segna quello altro? Perché ce n'è uno, è rimasto qui, vediamo chi è. No, sempre quello segna, povero Rosso. Se ne sono due, qui ci sono io. Allora, due te sono su 14, e lì ci siamo. Ci sono io. E poi, vabbè, poi mi risulta uno proprio attaccato a me. Ce ne sono solo due su 10. E due in pratica sono su, siamo in 2 su 14, io e Leoncino. Capito? Forse c'è Franco anche di sotto. Io sono su 14, quindi gli altri sono su 10. Non so se sia Michele Polverone oppure un altro Polverone, cosa ne sono intanto, ne appare uno. Poi appaiono queste robot che si fanno la passeggiata ogni tanto, e quindi la... qualche volta entra una coppia di cose, maschio e femmina, no? Proprio una coppia nel robot, capito? Escono assieme, dopodiché... Ma qualche volta li sento, non è che entro. Capito? Io penso che sia avanti. Sì, vabbè, va. Pazienza. Avanti, Gianni. Eia, ciao Antonio, ben sentito, buonasera. Presumo che stavate parlando del CB8, no? Esatto, sì, stavo parlando di quello. Io ce l'ho, lo uso spesso con Giuseppe, poveraccio, non c'ha, c'è il PMR, però non c'è l'antenna esterna. È aperta l'antenna esterna da lui, quel casino, è come andare in un'oasi e c'è 10 cm per scendere giù nel fosso. Oh yeah. Va bene, ma Giulio, cosa c'hai? Un'altra radio accesa per caso? Sì, il PMR, dai, il PMR, aspetta che abbasso il volume. Avanti, lo spento, PMR, c'è Gian Maria che è Torre Squalo, su quel piccolo PMR, loro parlano sempre lì. Va bene, dai. Avanti, va. No, non me l'avevo più. Chi c'era rimasto? Daniele mi chiede, c'è ancora Daniele, sì. Ci sono. Sto guardando qua alcune cosette. Di connessione c'ha qua. Bisogna prendere una lente e guardare attentamente. Ok. Aspetta, hai visto Antonè, adesso che hai tirato sulla antenna, Daniele, riceve anche meglio. Adesso poco mi ha dato il 9+20, mi ha dato. Molto più vicino a Daniele che di me, naturalmente. L'Ira dell'Italia, Daniele addirittura se installa l'antenna sotto al tetto parla con la Spagna tutti i giorni, anche senza propagazione, non solo da. È una zona molto bella, poi c'è un libro in centro Sardegna, quindi ha voglia, deve solamente sollevare di altri 4 metri e lui è a posto. Una volta che c'è campo libero lui parla tranquillamente con tutta come c'è Sardegna, Bosa, Tempia addirittura, e lui la di su vede usino, io non lo vedo, figurati tu. Quindi è una bella zona, lui abita proprio attaccato dove abitava Salvino Lollo, quindi vivo di Dudu. Salvino parlava tutti i giorni con la Spagna, come lei ci parlava anch'io quando ero in via Rizzetto. È una bella zona quella dove Daniele. È che appena parla più bassa, ma se solleva poco di 6 metri, è raro che c'è lui da lì. Lo so, quando uno ha una posizione buona, ma io mi ricordo negli anni passati, parlavo sempre con la... tutti i giorni, d'estate, d'inverno, col tempo bello, col tempo brutto, non ce n'erano problemi. Io e Ivan di Ugino, il mobiliere che c'era una volta a Ugino, parlavamo con questa ragazza che abitava a Risarello, in Toscana, vicino a Firenze, che si può immaginare, non è dietro. Eppure tutti i giorni senza profanazione stavamo, tutti i tantissimi giorni, la sera ci sentivamo sempre, e facevamo queste ore a tre, io, Ivan, Diosilo e questa ragazza, facevamo sempre queste ore. Da qui, da dove sono io, con la volta da tubo mi hanno sentito anche alla Maddalena, mi hanno sentito. Io al tempio arrivavo benissimo e c'era, chi c'era? Gianni, mi sembra che Gianni, se ricordo bene. C'era Gianni lì a tempio, c'era, e stavo parlando con lui, Gianni il rematore, no? C'era questo della Maddalena che a me mi sentiva, però io lo sentivo a lui, però lui era in macchina, questo bisogna dire, mi faceva la ponte Gianni mi faceva la ponte, Gianni quello che parla sempre con Francesco di Utilo, Gianni, hai capito, no? Gianni di nome ti stai parlando tutto. Appunto, sì. Vabbè, dai. Mentre adesso con PMR, anche con il baracchino per la Corsica io sono favorevole, andavo sempre con Calvini, con Coenza, con Antonio Felice, e cioè Corsica 1, se lo ricorderai Corsica 1 in quegli anni, anche nella macchina ci parlavo tranquillamente, qui dalle punte, con la macchina ci parlavo lo stesso con Antonio Felice, infatti l'avevo invitato anche, perché lui aveva lo stesso con le monti, l'avevo invitato ad andare là, e quello non ci sono mai andato. Dice, vieni qua, fate le fede, tutto pagato, io non c'è qua, sarà il mio ospite, non vedo come è andato, già gli avevo promesso che ci andavo quando ci sono mai andato. E con PMR, lo stesso, con Sandro il Pototorre, che si trovava in Corsica, si trovava nella punta più alta di Coenza, la sera, o Calvino, mi ricordo bene, non vero, comunque una di quelle due città, proprio nella punta più alta. Io ho parlato con il PMR, lui dalla macchina e io dalla casa qua. Va bene, e io sono 20 bit. Avanti Gianni. Io vi lascio un attimino che devo controllare una cosa che ho messo a scaricare nel computer e poi casomai, tanto non ci metto tanto, casomai rientro dopo, ok? Grazie per adesso. Ok Gianni, d'accordo, a dopo allora. Avanti Daniele. Sì, già, ci sentiamo dopo, che io mi allontano 5 minuti a fare una commissione veloce, se no stanotte non ceno. E chi te lo fa fare cenare? Dove cenare? Che poi ti appesantisci, Vai e fai come ha fatto l'aglio della zucca, che dopo che sei abituato a non mangiare, Già lo sai cosa gli è successo. Vabbè, dai. A dopo allora, Daniele. Capito, Antonio? Quando ci sono momenti buoni, già, cioè è possibile. Invece in giornata di comparazione sono arrivato in Pruni da col baracchino quando avevo l'antenna la battuto con la Pruni avevo parlato una mattina, un sabato mattina mi ricordo, c'era una famiglia che si erano trasferiti in America ed era in Pruni da America, no? E dunque avevo fatto un quartiere con lui. E io ho capito. Andrà bene, stavo stemando la cassetta di Natuzzi che mi è uscito un perno, cazzo. E quindi. Beh, allora c'era di preparazione. Adesso sono settimana con cara, la verità. Sono settimana con cara in 27. Ma con i spagnoli, i francesi, sembrano spagnoli di tutti la circolazione quando c'è questo cibizzal, non c'è la propagazione di nulla, se non i canali sono zero di QRM, pare che siano tipo PMR, capito? E basta. Una volta aveva la fila vera, c'era la fila per il 27, adesso sono tutti spariti. Non so, purtroppo è così, purtroppo con passare degli anni la gente si è stancata e si è allontanata, vabbè, diciamo che in parte la colpa è anche di chi si diceva prima per questa, che si è comportata molto male, tanta gente intervista che parla, ma quando è suo marito un buon camper che stanno facendo magari tutta una vacanza, allora qualche volta ma dalla mente entra Rita, però non è la, non è la più nessuno, si donne, donne non ce ne sono più assolutamente, tutti i pali di soldati, ma alla fine abbiamo fatto Giulia. Che c'è rimasto, che c'è rimasto un coso, Daniele era andato a farsi la spesa. Che c'è rimasto avanti, così ci fa compagnia. No, non c'è nessuno stasera, non c'è nessuno. Tutti al mondo, tutti in giro se ne sono andati a passeggiare. Anche Allegri è in campagna, sta lavorando, sta diventando un martire del lavoro, da quando è in pensione sta diventando un martire del lavoro. E chi? Chi? Allegri, Claudio, lui Allegri è andato nella Juve, lui Juventino. Ah, Claudio, vabbè. Io l'ho assaggiata la campagna, l'ho assaggiata per la bellezza di quasi vent'anni, poi mi sono rotto le balle di quella campagna, non potrei provare di non andarci più con la verità. E andavo la mattina presto a fare finocchi, a fare sera, a fare prezzemolo, a fare tutto, poi facevo i conti in pratica, a fine mese non bastava manco soldi per la benzina, non solo l'altro. Cioè, se siamo alla macchina di mio padre, che durava questo durare 10 anni, durava 3, 4 anni, 5 anni, non di più, perché ci metteva la verdura tutta piena di acqua. Vabbè, lui ha da fare, se non ne approfitta quando il tempo è buono, non piove, quando deve farlo da fare. Anzi, è meglio che si dia da fare, così almeno si preferisce una volta per tutte, almeno non se ne parla più. E lui sta aspettando quello. È in ansia, non si vede mai dalla casa nuova. E poi parla con uno, parla anche lui, da di sopra. Vabbè, invece che vado a pigliare le sigarette a Simona, se no mi tocca le ossa. Sentiamo fra 5 minuti, dammi il tempo, salgo, cioè scendo e salgo per l'esattezza. Alto la bacchina e sto arrivando. Ok, attenzione 10, Giulio ci sei? Sì, buonasera. Ciao Tino. E allora? E allora che si dice? Vedi, con questo apparato ti sento anche, ti vedo anche il segnale un po' meglio, Vero, quanto è adesso? 8. E invece l'altro è più tirchio, ok. Come la radio? Normale questa? Va bene, ti. Il segnale è aumentato perché ho sollevato l'antenna. Ah, ci ho levato l'antenna, aspetta che ti ascolto con l'altro allora. Di molto? Adesso ho superato il tetto. E ho altri 2 metri da salire. Cazzo, dai. Ora, Va bene. Quindi da giù è aumentato, da te, che si dice, com'è? Santiago 8, però con questo è più tirchio, quindi 6-7 con questo. Quindi prima ero 6? No, con questo qua sei più basso di segnale, ma perché tirchio lui? Sai che ti ascolto con Kimbus. K. Ora, va bene? Fai un passaggio più lungo, sì? Guarda un po', può stare acceso, Che deve scaldare ancora. Sta trappando, aspetta. Questo è... Ora, dove? Ora. Guarda, così dovrebbe andare bene, però. Perfetto, tu cannuda. No, non lo so. Prova a vedere, ti dico, quanto arrivi. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Hai migliorato dal giorno alla notte. Santiago 9. E non c'è tutto ancora, Su questo c'è altri ancora 2 metri a disposizione, lì, parcheggiati. Sì, Santiago 9. E io non ti arrivo lì con questo. Qua siete tutti 9.25, state arrivando. Vabbè, però chiudi il refrigerio. Non ce l'ho io. Devo attaccare, aspetta, attacco l'altro 48, aspetta. Ah, ecco, va bene. Cos'hai? La modifica? Qua c'è zietto, mia, lo senti. Va bene. Pensavo che avevi la possibilità di abbassare il segnale, dai. Sì, aspetta, lo faccio, 2 secondi, cambio spinotto, aspetta. Sì, già sono qua, non devo aspettare. Attimi no, anche io, poi vado a fare una doccia. Ora. Attento, Claudio. Ehi, Giulia, c'è poco. Sì, no. Qua è cambiato anche modulazione, Prova. Guarda, aspetta che ti attenuo, vai un po'. No, fai 7-8 modulati, Abbassa tutto sin quanto puoi. Ci sei? Cappa, tutto chiusolo. E quanto è? Sì. Sei a 3. A 3, aspetta un attimino. Cappa. Eccolo, com'è? Guarda un po'. Ehi a te, stavo cambiando microfono. Prova. Pensavo che non mi sentivi. Prova. Quanto è adesso? Sempre attenuato? K, sempre attenuato e 6, se ne segna Santiago 4. Quindi fai la 3 a 4, così è. 4 abbondanti, sì. Ho capito, va bene. Porta la sì, aspetta, con l'altro però, Aspetti che non ti ho capito. Ho detto, con questo qua, portami a 6. Guarda un pochino. Mettilo a 6, perché a vedere un po'. Sì. Cappa. Bene. E ora, com'è? Quasi 8. Di 20 dB, eh. Va bene. Guarda adesso che ho messo il microfono dell'altro su questo, cosa dice? Va bene, radio, caspita. Ho voglia. L'altro è il microfono originale. E questo è con 3 watt e mezzo, Sì. Anche io. Va bene. Ora la cipolla. Vabbè, ma i microfoni normali della Midland vanno bene, infatti io adesso me ne ho dato uno Claudio, che però non sono riuscito a fare funzionare il Dartmouth app, perché lui aveva i pulsantini, no, per andare avanti in frequenza. Vabbè, li ho eliminati e diciamo che ho cambiato la capsula, perché effettivamente non usciva il radio, era proprio chiusa, sorda. E allora ho cambiato la capsula e già va bene. Già va bene. Perché adesso anch'io qua mi attrinzo di radio, vendo tutti questi giocattoli e mi attrinzo. Qua fai un acquisto di 40-50 euro, ti prendi un 747 e non hai problemi, perché va più che bene con quella radio lì, Però se vicini il Milan ti copre di... ti mandano un po' di splatter, quindi sono troppo aperti. E infatti c'era qualcuno sul 20 poco fa che mi stava tappando. No, qui c'era una banda laterale. C'ero anch'io, stavo chiamando. Cava. Va bene. Aspetta che riattacco. No, l'altro lo lasciamo spento. Facciamo girare questo un po', dai. Tanto quello ne ha voglia del tucci. Tanto adesso mi fatto fare, faccio la luce, che sto riempendo la cisterna. Prima che mi manchi l'acqua. Babà, problemi d'acqua c'hai te? No, vabbè, io abito a periferia da loro, sono a Campagnola, e quindi anziché tirare direttamente dal pozzo, la cisterna grande, la riempio, poi vado con l'autoclave, la caldaia e così via. No, anzi, problemi di acqua non ne ho mai avuto, grazie a Dio. Quando a Sassari non ne ha, io vado a Sassari. Buono, buono. Va bene. C'erano tutti gli altri, hanno chiuso. Non lo so, quando ti serve la gente non c'è mai. Tutti nascosti ci sono. Vabbè. Vabbè. Ci manca un attimino in ascolto sul 20, dai, che se entra qualcuno, che sicuramente c'è qualcuno deve entrare sul 20, quindi passo nell'altro, nell'autocar, sono lì. Va bene. Ciao, ciao, ci vediamo, ci sentiamo. Ehi, ciao a te, ci sentiamo più tardi, dai. Ehi, a dopo, dai, ciao, ciao. Ciao, ciao. Amore, Monti, ce n'hai qua? Un cadavere, cosa c'è? C'è nessuno? Ciao Claudio, buonasera. Vabbè, mi rientrando adesso a Campagnetta. Facendo roba. Vabbè, non c'è nessuno oggi. Sì, c'ero io, Daniele, Giulio, Antonello, poi ho dovuto mollare perché stavo facendo roba al computer, mi si è impalato il PC, stavo scaricando la roba, quindi ho dovuto staccare e piano piano gli altri si sono spostati. Gli altri sono spostati, mi sono spostati. A mangiare ci hanno andati, cosa sono per 20. Cosa ti sposti? Va bene, va bene. Kappa. Vabbè, diciamo che no, che abbiamo staccato un po' prima, non so. È già un'oretta abbondante che insomma ci siamo. Insomma, abbiamo staccato. Vabbè, e anch'io non è che adesso sto in radio, adesso faccio una luce. Bravo il sistema, fa un po' sarà pronto anche la cena, va bene. Ho acceso adesso, mi ascolti bene, sì? Come sempre, come al solito. Va bene, va bene. Kappa. Ok, dai. Ci aggiorniamo dopo allora, Gianni, già lascio acceso adesso. Sempre qualcuno, perché abbiamo fatto un messaggiottino e voleva anche dei controlli. Va bene, dai, mi sistemo e poi magari due chiacchiere. Se non è pronta la cena, se no dopo cena. Ciao, a dopo. A dopo, grazie. Kappa, ok. Poi lunedì ci sentiamo per quella roba che ti ho detto. Affermativo. Claudio! Nara! Buonasera, prima che tu chiuda io chiuda. Dammi il controllo segnale. 5 dB più, nel senso che eri 9,15, adesso sei 9,20 quasi pieno. Ehi, e c'ho 2 metri da salire ancora di palo, quindi la posizione è ottima. Beh, quando deve superare tutto sicuramente arriverai molto, molto più forte, Daniele. Comunque va bene, non c'è problema. Hai migliorato tantissimo, kappa. Dopo la mantovana è adesso, 50 cm dopo la mantovana. 50 cm dopo la mantovana, e lo c'è quasi, Daniele, più o meno siamo lì. Il mio segnale? Hai visto anche la ricezione se ha migliorato? Tu superi il 3 del 30 adesso, sei tra fine 3 e inizi 0. Ah, hai visto. Allora già va bene, perché ho visto qua che sono 4 punti S in più. E ancora un po' di sacrificio dobbiamo fare, dai. Quarantena comunque va molto bene. Va molto bene. Ok, dai, fatemi andare a lavare. Che era in campagna, stavo finendo delle cose. Sono tornato a casa perché ancora mia moglie non sta bene, quindi andremo domani. Va bene, dai. Ci sentiamo dopo, Daniele, lascia tutto così perché per me va più che bene, ok? Oh Kappa, dai, che vado a fare un po' di carica. Ci sentiamo dopo se coinciderai. Ciao Gianni, ciao Claudio. E entro dopo cena, dai. Magari dopo c'è anche Tino, mi pare che aveva necessità ancora di fare qualche ritocchino. Ho fatto le prove ieri con Gianni e con Franco di Viale Sicilia, ma sono troppo vicini. necessita la mia presenza, se non mi direte il bibirizzo, dormi, se no mi avvio, ok? Ciao, a dopo. Ciao, Cla, ciao. A dopo. Ciao Gianni, a dopo, dai. Gianni. Da mangiare, Mari. Non c'è Mari. Sono io, adesso volevo mangiare, che stavo provando qualcosa. Cosa stavi provando? Mio nipote qua ha toccato qualcosa, sicuramente. Come sto scemo qua adesso? Così, dai. Diciamo, un po' bene e un po' male. Cosa hai toccato? Sicuramente ha toccato qualcosa mio nipote qua. Guarda in questo passaggio. Così già va bene. Stai attento, mi. Stai attento con l'altra radio, perché se tocca qualcosa lì è un casino, Adesso dovevo andare bene, no? Prova. Guarda in questo passaggio, non lo so. Alza appena il Mickey Green, appena. Guarda, già va bene, dai. Capito, Mari? Stai attento. Non ti tocchi l'altra, perché sennò, mamma mia, mettila in alto che non ci arrivi. Adesso ripiamo già pronto, guarda, adesso ripiamo già pronto. Va bene, adesso non va a cercare. Ok, Claudio, a domani ci siamo, ciao ragazzi. Ciao Mario, un abbraccio, buona cena, buon tutto, ci riascoltiamo, ciao. Sto provando questo qua, sei in FM, guarda così. Allora ce l'ha l'FM questo. Allora, aspetta un attimo. Non mi ricordo dove sono il canale, sto parlando, poi mi dice se sparisco, adesso ho cambiato, 1, 2, 3, ci sono? Sì. Bene, aspetta un attimino, vuoi partire da aspetta un attimino, guarda adesso, ci sono ancora? Sì. Ora, è così? Aspetta, forse si è andato in FM. Ok, sì, questo è l'FM, allora. Così ci sono ancora? Sì. Così ci sono ancora? Sì. Guarda, adesso parlo e abbasso un tastino. Parlando, però questo qua è del... C'ero? No, quando hai abbassato il tastino sei sparito, non so dove sei andato. Non lo so neanche io. Non lo so neanche io, non me lo ricordo più queste cose come erano. Perché... Allora, guarda se cambia qualche cosa. No, questo dovrebbe essere lo scotch che è normale. Sì. Così invece guarda se aumenta qualche cosa o diminuisce. Ora. Appena forse un pelino aumenta, sì, non potevo dire io cosa devi fare. Ti stacchi l'antenna a quello grande, lo metti sintonia continua e guardi dove sei, se sono canali già lo trovi con quello là. Lo so, ma visto che ci sei tu non stacco niente. Capito? E questo è Mickey Green, guarda, se aumenta lo fa. Sì, abbassa, mettilo com'era. Ah, quindi così è normale. Va bene. Sai che proviamo l'altra, Poi voglio provare l'amplificatore qua però, in questo qua. Che 4 watt, tu. Quanto ne hai di baracchini? Mamma mia, che... No, non ti credo. Già... insulti sono, però sto accoppiando di microfono. No, la Linco 248, non sei, cioè non è eccolo là, non è che ho altro. Sono ne hai 50.000, Vabbè, prova a attaccare l'amplificatore qua, vediamo. No, dopo l'attacco, aspetta, mi interessa quell'altro. Comuta un attimino. Comuta. Eccomi. Qua sono attaccato, C'è sempre però una leggera saturazione. E se abbassi il microfono è ancora peggio, capito? C'è sempre, quindi l'ho notata anche stasera. C'è. È percepibile però c'è. Vabbè, guarda se cambia così. Vedi un po', ora ho abbassato appena il Mickey. No, deve abbassarla la radio, no. No, mettilo com'era il Mickey. Così. infatti, così era come poc'anzi. Vuoi lasciare la manetta al Michigan, se no peggiora, perché va a toglierti, sì arrivo, perché va a toglierti l'amplificazione e praticamente si sente di più la saturazione, capito? Guarda che il Michigan lo posso aumentare. Aumentalo allora, aspettati un attimo, mi sta chiamando Anna, un secondo solo. Sì, saluterà. Scusa, dovevo, che sennò è quasi brucia. C'ho la carne al forno. Stavi dicendo? Stavo dicendo, così i Michigan lo posso ancora aprire, hai capito? Però giustamente chi è vicino a me lo sente molto di più che attaccato, capito? Ma non vorrei che distorcesse più che altro. Fammelo sentire, cosa devi distorcere? Io lo devo sentire per dirti se in lontananza, ma è normale, questo lo sanno tutti. Anche i bambini lo sanno, no? È più vicino sei, è più la voce chiaramente rimbomba o è più forte. Ma tu non è che devi pensare al tuo vicino, devi pensare anche a chi è lontano. Ecco, così è Michigan tutto aperto. Vedi un po', ma si è cambiato qualcosa. La modulazione è molto più comprensibile, cioè tende a smorzare quella leggera saturazione che ti crea l'amplificatore, tutto lì. Quindi, secondo te lo lascio così o c'è da regolare anche il microfono? Così mi insegna, capito? Eppure sta. Devo dire proprio con l'altro. Provo a aumentarmi il microfono, prova. Adesso è a 9 il microfono e tuoni a 1,5 come sempre. Per me va bene anche a 9, mettilo a 10. E così è a 10 la manetta, ma forse credo che distorca. Assolutamente no, a meno che uno ti riceva con una radio di plastica, io ti sto ricevendo col K e la modulazione è bella e ti dico che elimini, vai a eliminare quasi del tutto la saturazione col microfono alto, capito? Quindi più alto è il microfono e meglio va, perché altrimenti si sente la saturazione, leggera ma si sente, capito? E non sta distorcendo nel modo più assoluto. Ah, quindi così va bene. Sì, per me sì, poi per gli altri che hai vicino, chiaramente tu hai Giulio vicino, hai Massimiliano, hai Franco un tiro di schioppo, quindi è chiaro che per loro sarà diverso, per me va bene così. Guarda, meglio so per segnarmi le cose. Dammi il segnale, così a vedere com'è, quanto arriva così. Allora passi, staccato da 9.10 a 9.20. So, pensavo di più, così è staccato. Sì, non mi si risente 10 punti S, ma stai scherzando, è chiaro che in lontananza andrà ancora meglio, ma in città non è che puoi avere tanto, ma sono tanti. Cioè così è 9, a 9.10, quante? 9.10 sei liscio, e 9.20 quando attacchi, a noi nutano, c'è, la differenza c'è, è chiaro che c'è. Aspetta, così 9.20, giusto? 9.20. Eia. Ho sbagliato il tasto. E così invece senza niente. Ah, ecco. Allora, vai da 9.5 a 9.20. Va bene. La radio ha cambiato qualcosa? No, va bene anche così la radio. È ottima, bella amplificata. Se tu mi fai i massaggi crani, già non è nulla, no? Da 9.5 a 9.20 ti pare poco, 15 punti S in città. No, vabbè, mi sono sbagliato il tatto, detto, perché non ce l'ho portata di mano. Comunque, lascio la radio così. Mentre invece, ve l'ho attaccato a 9.20, vabbè, faccio un cambio di antenna allora, però col microfono normale. Credo che tenda a saturare, perché il microfono normale non riesce a coprire. Non riesce a coprire, no, sicuramente. Proviamo, dai. Aspetta, Eccolo, così è attaccato, ecco. Ed è, quale radio è? Un altro 48, però quello che aveva il parlascolta, diciamo, l'Ecco, ve l'ho eliminato l'Ecco, poi magari provo anche con l'Ecco. Com'è? Satura? Sì, lì ci vorrebbe il microfono ben amplificato per far sì che praticamente smorzi un po' la saturazione. Ho capito, aspetta, non credo che... perché non ce l'ho adesso l'altro microfono. Fanno questi connettori così piccoli, proprio le balle e toglierle. Lo so, però quella lì praticamente è così. È una c'è una leggera saturazione, beh, capito. Però è comprensibilissimo, eh. Aspetta, sto spostando le cose. Lasciati il commuto anch'io al baracchino per vedere se satura quando attacco il 747, vediamo, eh. No, il 747 no. Niente. Quello lo so tranquillamente. Aspetta. Niente, non si può fare la prova. Va bene, eh. Allora, quello là mi ha detto 9, aspetta che stacco tutto. Guarda così, questo qua quant'è invece? Più o meno uguale, sì, non cambia quasi niente, dai, più o meno uguale. Questo è 4 watt, niente di attaccato, niente. Non vedo differenza, dai, forse un pelino, ma niente di particolare. Ok, niente, vai bene. Io adesso sto andando con l'Elbex 4082 e c'è il 747 attaccato, sì e no saranno una cinquantina di watt. La modulazione rimane buona? Sì, ma quello lo sapevo, perché l'altro non era buona quando avevo l'altro. Sì, va bene. Aspetta che ricambio l'antenna, dai, che devo uscire, devo andare dietro. Gappa, va bene. Ronaldo, non entrate questa gira. Ci sono? Aspetta, un'altra gubba. Come radio un'altra gubba è... Se sei liscio sei già 9-10 con questo. Sì, non c'è niente attaccato qua. Questa è la classica, la normale. Mi guarda, adesso è in standby. Guarda l'attimino. Ruppala. E questo è aiutato. Vedi, di più non va proprio. Di più non va, ma sei lì, capito, sei lì. C'è lì come potenza, non è che ti allontani molto dall'altro. Quella potenza cosa? Questo qua c'è attaccato. Non riesco a capirti. Quanto è adesso? Quasi 9+20, eh. 9, poco più di 9,15, dai, l'altro è leggermente più forte. È sempre questo, è questa. Ho staccato l'antenna, l'avrei staccato la prima, quindi ho sono sceso. Sì, adesso sei col segnale che avevi uguale all'altro. Forse perché si è raffreddato un pochino. Aspetta un attimo. La radio è sempre strappata. No, la radio va bene. Bene. Aspetta. Fai. Vamos, capo adesso. Guarda, questi qua sono, aspetta un attimino, tipo quanti sono questi qua, così almeno. Allora, ricordiamo anche qua. Modulati sono quasi 18, dai, adesso portante fissa sono 4, così, modulati va con un po' di picchi, ma non li tocca i 20. Infatti quando parli c'hai picchi positivi a quasi 9,10, da 9,5 quasi a 9,10, quindi lascialo stare, va bene, ottimo per la truppa. Va bene, no, lascio così, così almeno. Quando sarà proviamo altro, dai. D'accordo, qua, a dopo, che sennò perdo la causa. E anche io, ma pare l'ho già perso. Ciao, a dopo. Ciao, ciao.